Allora, a pagina 51 questa volta, dimensione della serietà e profondità del vivere, contrapposto a una vita leggera e superficiale. Dice Maslow, io ed altri siamo rimasti particolarmente impressionati dal fatto che la tragedia può talvolta essere terapeutica e che la terapia spesso sembra dare migliori risultati quando le persone vi sono spinte dal dolore. Allora, l'esistenzialismo sottolinea la profondità del vivere e la serietà del vivere. E in pratica, ci sta dicendo Maslow, quando noi incontriamo il dolore siamo costretti a uscire dalla superficialità, perché la superficialità non è in grado di darci ragione di ciò che ci succede nella vita. E quindi, grazie al dolore, noi siamo costretti, nostro malgrado, ad addentrarci verso i profondi principi della vita, cioè diventare veramente dei ricercatori. È il dolore che ci insegna, altrimenti rimarremo dei superficiali, dei burloni, dei così. Vabbè, questo è ovviamente molto importante sapendo, avendo chiaro però che non bisogna dare un significato sbagliato al dolore. Nel momento che incontro il dolore, se comincio a dire questa è la verità della vita, come in parte ha fatto Schopenhauer dicendo il dolore è la vita è dolore e così via, momento, ma mica vero. Cioè, il dolore, la sofferenza, ci insegna Eschilo, errore della mente. E anche Schopenhauer lo sa benissimo quando dice dalla sofferenza si esce grazie a cosa? Alla compassione. Ma la compassione non è un optional. Nel momento che tu comprendi veramente che se esci dal mondo della forza, cioè dell'ego, e vai nel mondo della risonanza, la compassione, l'empatia sono i tuoi compagni di viaggio, a quel punto la sofferenza ha finito di fare il suo compito e allora emergerà la gioia. Quindi è molto utile la sofferenza. La sofferenza sta dicendo che stiamo trattando con la forza e con gli strumenti del potere ciò che può essere trattato solo con la struttura della risonanza. Quindi, in un certo senso, il fallimento della forza, il fallimento del progetto egoico, va considerato una grande fortuna nella vita. Prima riusciamo a incontrare questo fallimento, meglio, eh? Perché se lo incontriamo in tarda età, abbiamo fatto solo una vita superficiale. Prima lo incontriamo, prima abbiamo la possibilità di fare una vita veramente vissuta, cioè una vita di ricerca. Di che cosa? Di chi siamo veramente, cioè della nostra vera identità. Qui l'esistenzialismo, lo accenno qui, pone centrale il problema dell'identità. Chi sono? Chi siamo veramente? L'identità in realtà è identificazione nell'essere umano, fino a che non scopre l'Atman, finché non scopre la vera, quello che i mistici chiamano il fondo dell'anima. A quel punto scopro la mia vera identità, ma nel momento che scopro la mia vera identità è anche vero che non sono più solo, che sono il tutto. Quindi la mia vera identità è l'identità del divino. Tutti i passaggi necessari per arrivare al divino possono essere anche molto dolorosi. Capite che è molto diverso vivere la vita con questa comprensione e con l'idea che invece ogni inciampo che incontriamo è una sfortuna, una disgrazia, una maledizione di cui lamentarsi, di cui possibilmente scaricare una parte sugli altri, di fare in modo da non sopportare il dolore necessario ma entrare nel dolore nevrotico e quindi praticare il racket a ogni piesso spinto in modo da condividerlo generosamente con i compagni. Quindi invece in questo senso la solitudine è fondamentale. Quando incontriamo il dolore come esseri umani dobbiamo sapere che c'è una chiamata. La chiamata è: ma chi sono veramente? Quando scopro il significato di questa chiamata, cioè so decifrare il segno dolore, il segno sofferenza, lo so decifrare perché non ho capito il linguaggio, e a questi punti il dolore perde il significato di disperazione, cioè non avere più speranze, al contrario. Il dolore ci mette nella condizione di aprire gli occhi, ci mette nella condizione, non è detto che lo faccia fare, ma se lo facciamo noi entriamo, facciamo un passaggio a stati dell'essere più profondi, cioè diventiamo sempre più vicini a noi stessi. Vabbè, per chi avesse bisogno di approfondire, lo inviterei a leggersi. Tra i testi più chiari che conosco sono quelli di Byron Katie, su questo non ci sono dubbi, è una mistica attuale che non si considera una mistica, ma ha capito tutto della mistica.